Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano ancora il Brennero, dopo che la scorsa settimana la polizia austriaca ha presentato il piano anti-migranti. Come ormai diciamo da giorni, questo piano prevede una serie di misure, compresa la costruzione di un reticolato lungo quasi 400 metri sulla conca del Passo e il rallentamento del traffico sull'autostrada, oltre che sulla linea ferroviaria. Misure che però non sappiamo se e quando saranno applicate. Per ora si tratta dell'ennesimo annuncio che suona come un'ulteriore forma di pressione sull'Italia e sull'Europa affinché si rafforzino i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, quindi ben prima dell'arrivo al valico. Tutto a questo punto dipenderà dai flussi effettivi di migranti tra l'Italia e l'Austria. Finora si tratta di numeri molto ridotti, insomma allo stato attuale non c'è alcuna emergenza. Chiaramente in questa trasmissione la nostra attenzione è concentrata sulle potenziali conseguenze del piano austriaco a carico delle imprese della logistica, con ripercussioni sull'economia del nostro paese. Al Brennero, lo ricordiamo, ogni anno transitano 2 milioni di camion e, compresa la ferrovia, quasi 40 milioni di tonnellate di merci. È stato stimato che ogni ora persa per i controlli o i rallentamenti del traffico costa almeno 60 euro, un aggravio che inevitabilmente andrà poi a scaricarsi sul prezzo finale delle merci trasportate. Abbiamo intervistato Massimo Bagnoli, presidente di FIAP, e a proposito di costi per le imprese di autotrasporto è stata anche l'occasione per fare il punto sull'incidenza dei pedaggi autostradali, che anche quest'anno sono aumentati. La pericolosità che poi parta una cosa che già l'autotrasporto costerebbe tanto, perché comunque l'inasprire i controlli proprio su quella frontiera, che per noi è un valico più importante che c'è che ci affaccia l'Europa, potrebbe essere un problema poi in futuro se al Brennero poi prendessero seguito anche le altre nazioni. Pericoloso non solo per l'autotrasporto questo inasprimento. Per tutta l'economia? Assolutamente sì, per la nostra sicuro. Noi non dimentichiamoci che abbiamo lottato per avere dei bonus fiscali per gli attraversamenti di valico. Il nostro paese comunque coi valichi campa. Ecco, un tema sul quale FIAP è in prima linea è quello dei pedaggi autostradali. Avete assunto varie iniziative, com'è la situazione? Di stallo ovviamente, perché comunque si va attorno a delle cifre importanti, a delle cose importanti che non c'è la volontà politica di affrontarle, e anche in questo caso il settore conta sempre meno nella nostra economia. È sbagliato comunque, è sbagliato perché impoverendo l'autotrasporto, impoverendo le attività di logistica, sicuramente non si può far crescere il paese. L'autotrasporto sta per essere affamato da queste vessazioni che subiamo. L'11% di aumento delle autostrade in 2 anni non è nemmeno raccontabile, quindi è assolutamente, c'è una norma, noi chiedevamo che fosse applicata la norma, perlomeno chiedessero anche a noi, che siamo quasi il 50% del fatturato delle autostrade, di poter controllare come i criteri di questa norma vengono applicati. Non avete avuto risposta? Assolutamente no. Torniamo al piano anti-migranti dell'Austria. Per il Brennero, sul fronte autostradale, prevede traffico rallentato e quindi controlli particolari sui mezzi pesanti, anche con l'utilizzo di scanner termici nel caso ci fosse il sospetto di migranti nascosti sui mezzi. Di quello che la polizia austriaca intende fare e delle conseguenze di queste misure abbiamo parlato con l'ingegner Walter Pardaccher, amministratore delegato di Autobrennero. Per quanto riguarda noi, alla fine quello che in Austria faranno è rallentare il traffico per scegliere poi alcune autovetture, alcuni camion da controllare maggiormente. Dunque le autovetture dovranno viaggiare a, così loro dicono, circa 30 km all'ora, in modo tale da permettere questa selezione di quelle autovetture, ovvero di quei camion, mezzi pesanti, da controllare. Questi verrebbero poi fatti uscire su una piazzola dove la verifica vera e stessa verrebbe fatta. Questo comporterà però inevitabilmente dei rallentamenti, siete preoccupati? È chiaro che rallentare, come dicono loro, a 30 km all'ora già di per sé comporta delle code, questo è sicurissimo. Non è facile stimare quanto lungo saranno queste code. Però che ci saranno delle code, questo lo sappiamo già, questo è abbastanza chiaro. Anche perché andiamo incontro ad una stagione, diciamo, di grandi spostamenti. Anche questo, però anche col traffico normale, quello quotidiano di oggi, ci sarebbero delle code, perché questo che tutti sappiamo, una piccola perturbazione su un'autostrada significa già avere poi delle ripercussioni importanti sulla fluidità del traffico. Beh, qua non parliamo neanche di una perturbazione piccola, ma di una importante, perché si tratta di rallentare in modo forte la velocità dei mezzi che viaggiano sull'autostrada. Il rischio è che la coda possa iniziare molto, ma molto prima. Difatti questo rischio c'è. Ovviamente anche noi siamo un po' cauti nel fare delle stime, perché è molto difficile, perché dipende dal traffico stesso, ma da tanti altri fattori. Però che ci sarà una perdita di tempo non trascurabile, questo lo riusciamo a stimare anche guardando le esperienze che si sta già facendo a Kiefersfelden, al confine tra la Germania e l'Austria. Cosa succede? Lì ci sono code dove superiamo largamente la mezz'ora di ritardo. Chiaramente, una volta scattati, i controlli riguarderanno anche gli altri valichi tra Italia e Austria. E poi, come sentivamo, il rischio è quello di un effetto domino con altri paesi che potrebbero adottare provvedimenti analoghi. Qualche settimana fa la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ma in base ad un accordo consente il libero scambio con i paesi comunitari, ha annunciato la possibilità di schierare l'esercito ai valichi più a rischio. Ed è notizia dei giorni scorsi: Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Svezia premono sulla Commissione europea affinché venga attivata la procedura straordinaria che consente il prolungamento dei controlli alle frontiere interne nell'area Schengen per altri 6 mesi. Ma al di là della potenziale emergenza migranti, nel frattempo sul tratto austriaco dell'autostrada del Brennero è già in atto una misura fortemente contestata dal mondo dell'autotrasporto. Si tratta dei cosiddetti divieti settoriali, che impediscono il passaggio di trasporti a lunga percorrenza di determinate merci ritenute pericolose per l'ambiente. Un provvedimento che a marzo, anche su sollecitazioni delle associazioni dell'autotrasporto, a partire da Anita, la Commissione europea ha bocciato perché ostacola il principio del libero scambio di merci e comunque non induce alcun effetto significativo in termini di riduzione dell'inquinamento. Su questo argomento abbiamo sentito il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michael Ebner. È un punto dolente. Noi l'abbiamo contrastato fin dall'inizio, perché la terza edizione, le due edizioni non erano molto impostate sul partenariato. Anche questa è palesemente anticoncorrenziale, per cui sicuramente, a mio parere, anche a parere dei nostri esperti, verrà non accettata in sede europea. Gli austriaci dicono che è un grido di allarme per quanto riguarda la loro situazione, ma la stessa situazione ce l'abbiamo noi. Credo che dobbiamo trovare in comune accordo delle soluzioni in partenariato. Come Camera di Commercio, sia di Bolzano, di Trento e di Innsbruck, abbiamo più volte sollecitato il fatto che le misurazioni non vengono fatte in modo corretto e che i valori sono diversi nei tre lender dell'Oregio. Proprio per questo abbiamo iniziative in atto di portare le giunte provinciali in direzione di fare una misurazione che sia adeguata per tutti, per avere dei dati confrontabili. E ora voltiamo pagina e andiamo a Bari, dove nei giorni scorsi si è svolto il primo forum nazionale sulla portualità e la logistica. È stata l'occasione per fare il punto sulla riforma dei porti, un passaggio fondamentale per fare sistema e restituire competitività al nostro paese lungo le rotte mondiali delle merci. A Bari c'era il ministro Graziano Del Rio, ascoltiamolo. Stiamo parlando del piano della portualità della logistica, di tutti i provvedimenti che servono a che cosa? Servono a rendere più competitivi i nostri porti. I porti sono un pezzo importantissimo dell'economia di questo paese. Dai porti entrano il 70% delle nostre merci ed escono il 50% delle merci per l'export. Sono un pezzo, ripeto, importantissimo anche per l'occupazione, perché le nostre imprese si possono sviluppare solamente se hanno una logistica efficiente. E quindi oggi il punto su questa riforma, che sta già dando diversi effetti di semplificazione dei dragaggi, di semplificazione amministrativa, di revisione, diciamo, delle procedure di sdoganamento, e quindi questo tipo di riforme aiutano l'economia a crescere. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Noi ci risentiamo stasera a partire dalle 22.30 per un nuovo speciale, un approfondimento sulla vicenda del Brennero e degli altri valichi di confine di fronte alla prospettiva del ripristino dei controlli e quindi di un passo indietro nella storia con ripercussioni pesantissime sul comparto della logistica e alla fine su tutto il tessuto economico del nostro paese. Appuntamento quindi alle 22.30. Per ora grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.